Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo dalle notizie e poi le approfondiremo nella seconda ora che sono appena arrivate, e mi riferisco da un lato al via libera alla legge di stabilità, la legge finanziaria italiana, arrivato pochi minuti fa, mezz'ora fa, da Bruxelles. Non ci sarà nessuna procedura per il debito italiano perché la Commissione ha tenuto in conto i fattori rilevanti come le riforme, ma soprattutto dice Bruxelles ok alla manovra italiana, nessuna procedura di infrazione ma monitoraggio, perché gli squilibri sono rimasti invariati, richiedono un monitoraggio specifico e decise azioni politiche. È cruciale, continua Bruxelles, la piena implementazione, quindi attivazione, delle riforme strutturali in atto e in programma, e dà un giudizio più che positivo sulla riforma del mercato del lavoro e decisivi miglioramenti dal Jobs Act, dalla riforma del mercato del lavoro. E l'Italia ha fatto decisivi cambiamenti nella legislazione di protezione del lavoro e nei benefici per la disoccupazione per migliorare l'entrata e l'uscita dal mercato del lavoro. Questo è il giudizio di Bruxelles. Molti di voi la pensano diversamente sul Jobs Act, ma questo è il giudizio che arriva dalla Commissione Europea, che invece avverte la Francia e dice: ultimo avviso affinché la Francia corregga il deficit eccessivo. Da 2 anni ancora alla Francia, ma deve fare degli sforzi aggiuntivi, quindi entro maggio dovrà indicare le correzioni necessarie per ridurre il deficit sia quest'anno che l'anno prossimo, che poi verranno valutate. Questa, dicevo, l'ultima notizia, ma era una notizia attesa. Tra l'altro faccio notare che lo stesso ministro Padoan, nell'intervista di 2 giorni fa con Giovanni Minoli e quindi anche a Mix24, aveva anticipato che di essere moderatamente ottimista sul giudizio che Bruxelles avrebbe dato dei conti italiani, e aveva ragione, nel senso che non vi è stata nessuna procedura e quindi passa la nostra legge stabilità. Ancora di cosa ci occuperemo? Parleremo di quanto oggi racconta, o meglio stima, la Confcommercio nell'individuare un paese in cui c'è sostanzialmente un commercio con l'estero che cala leggermente a gennaio. La Confcommercio punta l'indice sulle tasse e dice sostanzialmente che le imposizioni sulla casa e quindi le tasse sugli immobili sono salite del 115% tra il 2011 e il 2014. Questo perché da lì ci si è passati all'IMU, poi la TASI, insomma l'effetto è stato, secondo il centro studi di Confcommercio che avremo ospite, un aumento dell'insieme delle tasse sugli immobili pari al 115%, e c'è il rischio, questo però è un rischio molto eventuale, che se l'Italia non dovesse raggiungere attraverso le manovre gli obiettivi dati a Bruxelles, scattano in automatico le cosiddette clausole di salvaguardia e potrebbero portare più tasse per 72 miliardi di euro. In realtà staremo a vedere, è inutile fasciarsi la testa prima, nel senso che queste clausole già lo sapevamo che ci sono. Per ora quello che registriamo come dato è che Bruxelles non apre una procedura di infrazione, anzi dice continueremo a monitorare come va, poi come si sviluppa la legge di stabilità sul fronte entrate, in questo caso soprattutto, però monitoreremo, ma l'Italia non ha un deficit in questo momento che porta a un richiamo, come invece è avvenuto alla Francia, che pure ha avuto 2 anni in più, ma è stato fatto un richiamo a, come dicevo prima, introdurre maggiori correzioni sul suo deficit. E di questo parleremo anche nella seconda ora del programma, perché nel frattempo esistono anche dei calcoli su quanto sta spendendo in meno lo Stato italiano come interessi sul debito. Il fatto che i BTP e i BOT siano vicini ai minimi storici, in alcuni casi li abbiano toccati, fa risparmiare 6-7 miliardi rispetto all'abbassamento dello spread, quindi ai nostri conti pubblici. Non è poco, è una mezza manovra finanziaria. Ancora per quello che riguarda i temi, partiremo subito invece sulla notizia che più ha mosso, come era immaginabile, la borsa oggi, e mi riferisco a Rai Way. Adesso il titolo guadagna il 9,80%, Mediaset guadagna l'1%, dopo che si è avuta notizia straconfermata che A-Towers, la controllata di Mediaset che controlla le reti di trasmissione del gruppo Mediaset, i ripetitori, chiamiamoli così, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Rai Way. L'offerta prevede una componente in denaro e una in azioni e sostanzialmente valuta la società che gestisce le torri di trasmissione della Rai, la valuta 1 miliardo e 222 milioni, pari a circa 4,5 euro per azione. Non a caso il titolo Rai Way si sta portando verso quel livello, è a 4,1, appunto in rialzo del 9,80%, e l'obiettivo è creare un grande polo unico nazionale dell'infrastruttura televisiva con 5.000 antenne, un modello già esistente in Francia, Regno Unito e Spagna, dove però c'è un mercato un po' diverso nel panorama radiotelevisivo. Rai Way appunto è in borsa dallo scorso novembre al 35% collocato sul mercato, tra l'altro BlackRock al 5%, il 65% resta in capo alla TV di Stato, alla Rai stessa. Però attenzione, perché sul fronte Rai Way quello che bisognerà capire, cercheremo di farlo, è se la Rai possa vendere questa parte, perché il governo ha vietato a suo tempo di vendere alla Rai una quota superiore al 49%, o meglio di scendere sotto il 49%, di arrivare sotto il 51% in Rai Way. Per cui non ci starebbero i conti se l'offerta di Biscione appunto è per comprare Rai Way ancora in mano alla Rai, e quindi il 65%. Detto ciò, la Rai potrebbe incassare, se fosse possibile accettare questa offerta, potrebbe incassare 793 milioni di euro. Tra l'altro il consiglio di amministrazione di Mediaset ha dato via libera all'offerta appunto della controllata A-Towers su Rai Way. Il finanziamento arriverà da JP Morgan, che finanzierà l'offerta con 851 milioni di euro. Ne parleremo subito in apertura. Altre notizie in breve, come sempre, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Complessivamente la borsa di Milano oggi perde l'1,1 ed è la peggiore tra quelle principali europee: Parigi meno 0,30, Francoforte meno 0,1, Londra meno 0,40, l'America invariata, bene Telecom Italia più 1,50, Mediaset dicevamo più 1,15, invece cedono tutte le banche a partire da UBI Banca meno 3,13 e poi Banco Popolare meno 2,30, Pop Milano meno 2,30. Monte dei Paschi meno 3, Mediobanca meno 2,60, Unicredit meno 2,36, poi c'è Moncler che perde il 2,40%, Saipem il 2,20, Fiat meno 2,1, Ferragamo meno 2, come la Popolare Emilia Romagna, Intesa San Paolo meno 1,90, Autogrill pure e anche Prismian. Poi è giallo, tra virgolette, su questi 20 miliardi in più che dovrebbe chiedere la Grecia. Perché dico giallo? Perché secondo la stampa tedesca, alcuni politici tedeschi avrebbero detto che la Grecia avrà bisogno di un terzo pacchetto di aiuti da luglio per un ammontare di almeno 20 miliardi. Tra l'altro, poco dopo è intervenuto anche il ministro delle finanze Schäuble, ha detto terzo pacchetto a luglio, mai dire mai, però Atene non può avere il resto dei soldi senza realizzare un programma. Da Berlino poi è arrivata anche di nuovo un'altra precisazione, ha detto troppo presto per parlare di terzo programma, il dibattito è ingiustificato. E poi sempre da Berlino l'indicazione viene richiesto da Atene di non dare segnali contrari fra loro, di applicare quanto concordato. Comunque in Germania nel frattempo i tassi sono negativi anche nei bond a 5 anni, ossia diventa conveniente per lo Stato tedesco indebitarsi. E perché questo? Perché chiaramente abbiamo un calo dello spread in tutta Europa, nel caso tedesco sia almeno 0,08, cioè si preferisce prestare soldi alla Germania anche se a scadenza se ne avranno meno in termini nominali. La domanda a fronte di un'offerta di 4 miliardi ha raggiunto i 6 miliardi e 4. Anche il nostro bot a 6 mesi ha toccato il minimo storico. Pensate che comprare un bot a 6 mesi rende adesso lo 0,09% contro lo 0,16 a gennaio, cioè praticamente niente. Ma la domanda è stata molto forte, perché per collocare 7 miliardi di bot il rapporto tra domanda e offerta è stato dell'1,8 e basta, quindi quasi due volte superiore all'offerta la domanda che è arrivata di bot italiani a 6 mesi. Anche lo spread italiano è leggermente in calo, intorno ai 110 punti, dopo che il BTP a 10 anni rende l'1,44%. Il Centro Studi Confindustria oggi ha indicato un insieme di prospettive in miglioramento e stima che arriveranno delle sorprese positive, tant'è che vi è la possibilità di rivedere al rialzo le proiezioni sulla crescita economica italiana, quelle che poi verranno diffuse a giugno. E infatti dice molto probabile che a giugno rivedremo al rialzo le stime, e perché questo cita una sequenza di statistiche uscite nell'ultimo mese, tutte positive e tutte migliori del previsto, ossia fatturato industriale, ordinativi all'industria, produzione industriale ed edilizia, vendite auto, export, occupazione e fiducia. Tant'è che il Centro Studi Confindustria si spinge a dire che nel secondo semestre dovremmo acquisire velocità. Sì, alcune agenzie titolano sprint, ma insomma, anche perché siamo entrati nel 2015 da fermi e quindi ci vuole un po' a recuperare la media sull'anno, e nei primi sei mesi non saranno degli andamenti così forti se tu parti, diciamo, da fermo col segno meno. È chiaro che ci mette di più a recuperare, ma la crescita acquisterà velocità nel secondo semestre, lasciando una buona eredità al 2016. Il contenzioso con Google, allora anche qui è un giallo, perché oggi il Corriere della Sera riportava la notizia come se fosse cosa fatta l'accordo da 320 milioni all'Italia, Google, su 800 milioni di euro di tasse che riconosce come imponibile prodotto in Italia dal 2008 al 2013, sarebbe stato d'accordo, avrebbe sostanzialmente firmato un accordo per pagarne 320 milioni. E la decisione appariva come un colpo di scena, in quanto Google avrebbe in questo caso rinunciato a utilizzare tutte le armi giuridiche per cercare di resistere ad oltranza, fermo restando che secondo me ha ragione da vendere il governo italiano, nel senso che i profitti della raccolta pubblicitaria nel nostro paese vengono registrati in Irlanda e a Bermuda, allora mettiamoci d'accordo, no? Così come con Lussemburgo del caro Juncker, decidiamo che se tu fai profitti qui li registri qui, no? Perché è troppo comodo andare a pagare le tasse dove più ti conviene, poi alle Bermuda. E stiamo parlando dei profitti di Google nella raccolta pubblicitaria fatta in Italia, per cui evitiamo polemiche inutili. Vedo alcuni messaggi: raccogli pubblicità in Italia, lo facciamo noi come Sole 24 Ore, lo fa Corriere della Sera, Rizzoli, La Repubblica, L'Espresso, e le tasse le paghiamo qui perché sono profitti che raccogli in Italia. Non si capisce perché questo fantastico mondo della new economy sia molto new come strumenti e molto old come pagamento delle tasse. I trucchetti sono sempre quelli: allora pagate le tasse in Italia e basta. Però smentisce Google, dice la notizia non è vera, non c'è l'accordo di cui si è scritto, ma continueremo a cooperare con le autorità fiscali. E conferma che non vi è un accordo anche il procuratore della Repubblica di Milano Brutti Liberati, che dice: attenzione, allo stato delle attività di controllo non sono state perfezionate intese con la società. Alla vicenda Google sono dedicati 100 secondi di oggi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, assieme a Radio Dimensione Suono, vengono trasmessi dalle due emittenti. L'autore oggi è il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il fisco italiano e Google, la multinazionale di internet, hanno fatto pace, anzi dovremmo dire si preparano a fare pace, visto che sia la società sia la procura della Repubblica di Milano hanno smentito il raggiungimento di un accordo per il pagamento delle tasse che la società americana deve al nostro fisco. Si conferma però che tra il fisco italiano e Google ci sono delle trattative in corso, e anzi che i due soggetti sarebbero vicini a un accordo sul pagamento delle tasse per le attività che Google svolge in Italia. Su queste attività la multinazionale ha finora pagato cifre davvero molto basse, meno di 2 milioni di euro all'anno. Ora il conto sembra destinato a salire, a diventare più pesante, anche se non pesantissimo, e dovrebbe arrivare a 64 milioni all'anno per gli ultimi 5 anni. Vedremo come andrà a finire, ma è sempre più evidente che il problema delle giuste tasse da far pagare alle multinazionali stia diventando un'emergenza per tutti i paesi. E sfruttando in modo aggressivo le norme fiscali, le imprese globali riescono a spostare i profitti dai paesi dove vengono prodotti ai paesi che offrono di fatto l'esenzione quasi totale dalle tasse. Per l'Italia anche altri giganti come Apple o come Amazon sono sotto osservazione. È una partita difficile, ma è evidente che una soluzione va trovata presto, perché nessuno può pensare di pretendere da una qualsiasi piccola impresa il pagamento di importi fino al 68% degli utili prodotti e regalare invece un salvacondotto di esenzione fiscale a società con fatturati miliardari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, su Google abbiamo detto 800 milioni di imponibile prodotto in Italia, non di tasse. 320 milioni sarebbe l'accordo che invece è stato poi smentito, mi riferisco a Google. Qualcuno mi chiede: ma se vendete le copie all'estero dove pagate le tasse? No, scusi, forse non ci siamo capiti. L'accusa dello Stato italiano, che a mio avviso ha ragione, è che questi sono profitti derivanti dalla pubblicità che viene fatta in Italia e realizzata in Italia, però questi introiti vengono pagati in Irlanda e nella mitica isola fiscale chiamata Bermuda. Allora, tra l'altro a maggio dovrebbe arrivare il decreto fiscale, quello che dovrebbe sottrarre il cosiddetto abuso del diritto, cioè le operazioni che pur nel rispetto formale delle norme realizzano vantaggi fiscali indebiti. Per cui non capisco quale sia il problema, cioè paghi le tasse da dove realizzi i profitti. Alcuni mi citano il caso Fiat, certo che possiamo discutere anche di quello. Faccio notare che lì è un po' diverso, nel senso che Fiat ha una holding fuori e poi produce attività anche in Italia. Qui il problema era che la stessa Google Italia andava a trasferire, da quella che è la contestazione dello Stato italiano, tutti questi ricavi in Irlanda e Bermuda. Ancora per quello che riguarda, mamma mia, quanti messaggi su Google. Va benissimo, poi avremo il tema più avanti. Dicevo, partiamo dalla vicenda Mediaset Rai Way. A chi mi dice non parlate della bocciatura della Corte dei Conti alla legge finanziaria italiana, ne abbiamo parlato ieri, perché la notizia è di ieri, caro ascoltatore. Che lei pensi che noi siamo renziani è una sua libera opinione. La Corte dei Conti ieri ha detto: attenzione, sono troppo incerte alcune voci di entrate, a partire dalla spending review, ambiziose le entrate, come dire, irrealistiche. Per cui l'abbiamo già detto ieri della bocciatura della Corte dei Conti. Mediaset. Allora, vi faccio ascoltare intanto che cosa ha dichiarato la nostra Valentina Furlanetto, un docente che si occupa anche di questi temi. Mi riferisco a Michele Polo, ordinario di economia politica all'Università Bocconi, sull'operazione annunciata e confermata oggi, visto che è arrivato anche l'ok del CDA di Mediaset a Eight Hours per lanciare l'offerta su Rai Way. L'operazione ha una sua ovvia giustificazione, perché qui stiamo parlando della rete di torri di trasmissione dei segnali broadcasting, che attualmente sono essenzialmente due, quella di Elettronica Industriale Tower, cioè Mediaset, e quella di Rai, che è in Rai Way. E sono fortemente sovrapposte, ovviamente, perché entrambi le reti servono l'intero territorio nazionale e ci sono molti overlapping. Passare a una rete unica permette di eliminare questi overlapping e ovviamente i guadagni di efficienza sono enormi, quindi avremo una unica rete efficiente. Il problema è però che a questo punto si crea un monopolio nel servizio delle torri e quindi non è assolutamente accettabile che questo sia associato a un operatore che ha anche frequente e contenuti. Quindi è un'operazione che dal punto di vista industriale ha senso se si scorpora questa rete e diventa una rete totalmente indipendente da chi ha contenuti e frequenze, che serve tutti gli operatori di broadcasting. Altrimenti è un'operazione che è semplicemente nasce dal desiderio di uccidere sul nascere quella che sarebbe una competizione per l'offerta di servizi di trasmissione del segnale, che emerge adesso nel momento in cui Rai Way smetterebbe di trasmettere solo il segnale Rai, ma sarebbe disponibile a offrire anche il segnale di altri operatori. L'operazione che è stata presentata questa mattina, la sua ipotesi come potrebbe rientrare? È un'ipotesi, diciamo, ortogonale a quella che è stata presentata, nel senso che l'ipotesi che è stata presentata è quella per cui si crea un gruppo che fa parte di Mediaset e che ha anche tutte le torri. Ecco, in questo senso secondo me è inaccettabile, io immagino e spero che l'antitrust non passi mai una soluzione di questo genere. Allora, vorrei restare su questo punto nel ringraziare il collega del Sole 24 Ore, che da sempre si occupa di temi legati al mondo radio, televisivo e dei media. Marco Mele, buonasera Marco. Buonasera. Dove sei? Su una torre sei? Dove sei? No, sì, legato a una torre. È legato a una torre, ti sei già... Allora, quello che diceva il professor Polo era molto chiaro, ossia, da un punto di vista economico-industriale, l'operazione avrebbe molto senso perché vai a creare una grande rete, però non devi separare a quel punto chi ha le reti di trasmissione da chi ci fa navigare i contenuti. Quindi nel caso specifico Mediaset, come soggetto che programma e vende contenuti, da Eight Hours eventualmente con Rai Way come ripetitori. Faccio notare che è lo stesso tema che si ripropone ogni volta che parliamo di reti, di quello che ci viaggia sopra. Vale per il settore del gas, vale per il settore delle ferrovie, non cambia molto, e valeva per il settore delle telecomunicazioni, cioè la separazione vale tra la rete, cioè i canali, i binari, le antenne, le pipeline, i gasdotti, quello che volete, i cavi dove viaggiano i contenuti, e chi ha poi i contenuti da far viaggiare. È chiaro anche un bambino che se tu hai sia la rete che i contenuti, gli altri operatori risultano discriminati. Se poi questa operazione venisse fatta tra il numero 1 e il numero 2, e sostanzialmente Mediaset va a comprarsi i ripetitori della Rai, il rischio, non dico di conflitto di interessi, ma di creare un pastrocchio è fortissimo, perché da sempre si dice: bene, le liberalizzazioni funzionano se chi possiede la rete gestisce la rete e accoglie i vari soggetti che vogliono competere su questa rete. Ripeto, non cambia molto in via di principio se sia gas, se è gas, telecomunicazione, elettricità, ferrovie e quant'altro. o in questo caso ripetitori. Dimmi una battuta, poi ti faccio ascoltare anche Anzaldi e Peluffo. Se secondo te questa operazione potrà mai andare in porto, perché dal PD dicono già, e parlo del PD come segretario della Commissione di Vigilanza Rai o membro della Commissione di Vigilanza Rai, dicono che sarà impossibile. Marco. Stando alla lettera del decreto presidenziale che ha dato il via alla presentazione di Rai Way, no, perché lì si dice che l'orientamento del governo è di tenere pubblico almeno il 51% di Rai Way, quindi li mette sul mercato, sono messi sul mercato poco più del 30, si può arrivare solo al 49. Però il comunicato di Tavo è sparsa. Parla esplicitamente di una quota minima del 66% del capitale, da lì al 100%. A me mi sembra strano, io posso dire solo così, che si lanci un'operazione del genere con queste tempistiche. Il 27 marzo c'è già il consiglio d'amministrazione di Towers per valutare l'aumento di capitale, che si dica che si deve concludere entro l'estate 2015. Se non si hanno prima qualche minima garanzia e assicurazione che l'operazione possa quantomeno arrivare almeno fino al tavolo dell'antitrust, perché così come adesso sembra che non arrivi nemmeno l'antitrust, perché è bloccata da questa norma del sì, che è quello che ricordavamo nella parte iniziale, cioè attenzione, quando la RAI, quando il governo, il Ministero dell'Economia e Finanze ha collocato in borsa il pacchetto di Rai Way, cioè, dice, e tu lo ricordavi bene, il decreto del Presidente della Repubblica dice che non può scendere sotto il 51%, cioè la quota di maggioranza deve restare in mano alla RAI, no? Per cui allora è chiaro che questa offerta va contro, perché Mediaset fa un'offerta per il 69%, che è quello che è ancora in mano alla RAI, l'altro 31 è collocato in borsa, e quindi quello devi comprartelo in borsa, ma fa un'offerta per il 69. Quindi dici tu, se uno guarda il decreto già l'operazione è impossibile. Allora, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire da te perché allora Mediaset, che non è esattamente naif, lancia un'operazione del genere. Strano che faccia un'offerta del genere se sa già di non poterla fare. Poi ascoltiamo anche la levata di scudi che c'è stata dai membri del PD in commissione di vigilanza. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Marco Mele, visto che adesso ti faccio ascoltare da un lato la senatrice Laura Cantini della direzione PD, componente della commissione di vigilanza RAI, che dice Rai Way deve rimanere pubblica come ha previsto il governo, come ricordavi tu, la cessione delle quote non può superare il 49% e il 31% è già sul mercato. Stesso analogo tenore nelle dichiarazioni di Michele Anzaldi, deputato del Partito Democratico, segretario della Commissione di Vigilanza RAI. La proprietà della RAI, di Rai Way, resta pubblica, l'offerta è incomprensibile, c'è il rischio di creare confusione o illeciti. E poi Vinicio Peluffo, altro membro della Commissione di Vigilanza RAI, intervistato durante effetto giorno dal nostro Simone Spezia, va giù ancora più netto, dice non vedo possibilità che l'operazione vada in porto. Mi pare che non tenga conto di un punto incontrovertibile, ossia che l'operazione di collocamento in borsa di Rai Way, la dismissione di una parte azionaria, riguarda la minoranza, una quota di minoranza delle azioni, e che è chiaro che il 51%, quindi il controllo della società, deve rimanere alla RAI, quindi in mano pubblica. E quindi deve rimanere là, insomma non c'è, come dire, alcuna speranza che arrivi un via libera politico, per così dire, a questa operazione anche da parte dei ministeri competenti? Questo è quello che è contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla materia, per cui o c'è una decisione del governo che cambia opinione e cambia gli atti, ma non mi sembra che questo ci sia, o altrimenti non c'è possibilità di cambiare il senso e il corso di un'operazione che è stata fatta. secondo lei, perché Mediaset è partita con questa operazione sapendo, conoscendo i caveat che lei ci ha enunciato? Ho visto, leggendo i giornali, che l'operazione implica una grande valorizzazione di Railway, per cui si parla alla fine dell'operazione di una valorizzazione superiore a 1,2 miliardi. Penso che abbiano insistito su questo elemento, quello di fare un'offerta dal punto di vista economico molto appetibile. Però qui stiamo parlando di un'infrastruttura strategica per il paese, qui stiamo parlando di una decisione netta che è stata fatta, ossia quella di mantenere il controllo pubblico delle reti, per cui per quanto possa essere appetibile l'offerta economica, cozza con una scelta strategica per il bene del paese, quindi credo che questo prevalga, la scelta strategica. Quindi ci può assicurare che non c'è alcuna speranza, salvo che non succedano cose incredibili, che questa operazione vada in porto? Io non la vedo. Allora, la domanda a questo punto è molto semplice, Marco Mele. Ma se c'è una legge che tutti citano e che appunto, come diceva anche Peluffo, o il governo la cambia o quella è la legge, perché Mediaset va a fare un'offerta, tra l'altro indicando anche la banca, perché oggi è arrivata anche la notizia che l'offerta sarebbe finanziata da JP Morgan, 851 milioni di euro per offerta in contante, perché? Dunque io posso solo provare a indovinare, perché vabbè, certo, non è che... esattamente come, è stato, come ho detto prima, esattamente, cioè alla luce delle norme, se vuoi fare un'ipotesi, la stiamo discutendo qui, un'ipotesi che si apra uno spiraglio per renderla possibile sulla base di dire, ma va comunque in qualche modo cambiare, allargata quella norma, cioè di dire la RAI resta servizio pubblico. Il servizio pubblico della RAI è fatto, è anche non solo i programmi che manda in onda, i canali e reti, ma anche il fatto di trasmetterli attraverso una infrastruttura pubblica di trasmissione che ha una copertura molto maggiore di qualsiasi altra, cioè la copertura dei canali RAI è per concessione molto più elevata di quella di Mediaset anche. E poche persone, un punto in percentuale, ma vuol dire valli e valli dove spesso non si vedono altre televisioni. Allora si potrebbe pensare, anche leggendo il comunicato di E-Towers, che si punti su questo, cioè di dire E-Towers è praticamente nuovo azionista di Railway, che tiene la denominazione Railway, perché Railway resterebbe Railway, che si chiama sempre Railway, che non è più pubblica a maggioranza, ma che assicura alla RAI il 100% dei, diciamo, compiti di servizio pubblico che la RAI deve avere, cioè le assicura la stessa copertura, la stessa... È una, però, appunto, io lo faccio come ipotesi, e a quel punto l'antitrust dovrebbe quindi dire sì all'operazione, ma con delle condizioni, e una delle condizioni è quella di dare accesso a tutte le emittenti televisive, in particolare a quelle di servizio pubblico, assolvendo a tutti gli obblighi richiesti dal servizio pubblico. Ma questo Rai, però... Esattamente, Rai deve fare tutto quello che sta facendo adesso per la RAI. Però, nonostante questo, ma poi la maggioranza della RAI non è più pubblica, cioè resta il nodo, insomma. Beh, è una cosa, e stiamo cercando di dare intorno a un ragionamento, leggendo anche il comunicato dei Towers, ma insomma... Sì, tutto questo però, come tu hai premesso, devi cambiare la legge, perché da qui non si esce, nel senso che... Devi cambiare la legge, anche qui le leggi, cambiarle così con un'altra legge non mi sembra una cosa impossibile, cioè ha troppe controindicazioni politiche. Poi dopodiché, dato che il governo deve fare anche la riforma della RAI, si potrebbe... Ma potrebbe essere una mossa per dire, magari sono io che sto ragionando troppo, non mi capita quasi mai, quindi sarebbe un caso raro, vedo che annuiscono in regia, però dico, potrebbe essere che Mediaset ha detto, guardate, c'è questa offerta... questa fish sul piatto, voi adesso dovete fare la riforma della RAI, sappiate, visto che la riforma della RAI deve portare anche se non solo, a un miglioramento dei conti della RAI, potrebbe essere, intanto mettiamo la fish, vi diciamo, se voi volete noi siamo disponibili a tirar fuori 850, poi sono un po' di meno perché questo è il finanziamento di JP Morgan, ma siamo disponibili a offrire questi soldi, valutando RaiWay questo valore, cioè 700, sostanzialmente 4,5 euro per azione per un incasso che potrebbe essere di 790 milioni, sappiate che c'è questa offerta. C'è un atto preliminare? No, a me non risulta nessun atto preliminare. No, dico, in vista della riforma della RAI? Ah, no, io pensavo questo, dato che il governo deve fare un provvedimento sulla RAI, può mettere che la non rete... Ti sentiamo, Marco? Pronto? Mi sì, senti? Cioè... perché il telefono fisso, se è il mobile. Una volta è il contrario. E, dato che il governo deve fare questa riforma della RAI, non si sa ancora se per decreto o disegno di legge, io penso che un decreto sulla RAI non si possa non si può fare, perché è una materia di assolutamente rilievo costituzionale, ma diciamo che fa il disegno di legge. Nel disegno di legge o durante il cammino del disegno di legge si fanno gli emendamenti, si pone la fiducia sugli emendamenti, per cui francamente non capisco cosa del decreto, si fa un disegno di legge, poi il governo può presentare un emendamento e porre la fiducia e cambiare il disegno di legge, però comunque senza passare per questa cosa del decreto. In questo si dice la rete di trasmissione può anche essere ceduta a un soggetto esterno alla RAI, anche la maggioranza, purché sia mantenuti tutti gli obblighi di servizio pubblico dell'attuale contratto RAI-RAI Way, senza alcuna limitazione. No, ho capito che dici tu. Visto che c'è la privatizzazione della RAI da fare... Il governo potrebbe, e la riorganizzazione potrebbe inserire, è chiaro che non può essere, non sono d'accordo con te, un decreto legge, no. Potrebbe inserire una clausola per cui apre la possibilità anche al resto di Rai Way di essere ceduta, a patto che mantenga tutti gli obblighi nei confronti della Rai che già. Ecco, in questo senso si tratterebbe di una mossa preliminare, cioè far sapere al governo e a chi andrà poi a valutare i bilanci RAI che c'è una disponibilità di Mediaset molto consistente, molto forte, visto che vale quasi 800 milioni di euro. Grazie Marco Melli. Vabbè, vedo che comunque la dietrologia resta uno degli sport olimpici di questo paese. C'è chi scrive, ma io se io lavoro per Mediaset, altri dicono che invece sono un antagonista di Mediaset perché c'è Berlusconi. Guardate che è molto più semplice, una voce dall'altra parte no. Le dichiarazioni che abbiamo registrato dalle agenzie sono quelle dei componenti del PD. Quando arriveranno le altre dichiarazioni, figuratevi se non le avremo messe, magari a favore. Detto questo, il tema c'è tutto, non è un problema di essere contro Mediaset o pagati da Mediaset. Il problema è perché un gruppo in qualunque settore fa un'offerta sapendo che allo stato dell'arte la legge gli impedisce di esercitare quell'offerta. Ammetterete che il tema c'è tutto e la domanda c'è tutta. Perché dici di avere 800 milioni tramite JP Morgan se sai già che la legge non ti permette, non permette alla RAI di cedere in questo momento la quota che vorresti di Rai Way? Allora ragioni in prospettiva, no? Mica sono pazzi a Mediaset. La borsa, ovviamente, Rai Way, chissà poi se la Consob guarderà anche sul titolo, perché Rai Way oggi ha fatto il 9,46% a ultimo prezzo a 4,05€, ma ha aperto a 4,1€ per azione. E ne abbiamo parlato ampiamente di Rai Way. Telecom Italia più 1,60, Mediaset più 1,35, Unipolsai più 0,80, Luxottica più 0,70, Exor più 0,50. Male oggi invece tutte le banche, UbiBanca meno 2,80, Monte dei Paschi meno 2,70, Mediobanca meno 2,70, Unicredit meno 2,2 come il Banco Popolare, la Pop Emilia Romagna perde il 2,1 come la Pop Milano. Tra gli altri titoli in calo cito Moncler meno 2,60, Fiat Chrysler meno 2,12, Autogrill meno 2%. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo dalle banche. Sì, esattamente, oggi le banche sono state le peggiori, tra le peggiori delle blue chip milanesi, ma si è trattato soprattutto di realizzi, perché bisogna ricordare che le borse europee ieri erano salite tutte, ci sono stati anche dei record, non so, Londra ha fatto il record assoluto, Parigi aveva aggiornato i massimi dal 2008, Milano non è record, ma comunque ieri era stata una delle migliori tra le borse europee, quindi oggi c'è stata proprio una pausa, diciamo le parole d'ordine sul mercato a sentire gli operatori e gli analisti sono state cautela e pausa, quasi una pausa di riflessione per capire dopo gli effetti, dopo la decisione di ieri dell'Eurogruppo sulla Grecia e in una giornata in cui c'è stata un po' un'assenza di dati macroeconomici considerati fondamentali, in qualche modo come se gli operatori abbiano preferito prendersi un attimo un momento per capire se questi rialzi dei giorni scorsi sono giustificati, se c'è da valutare meglio magari alcuni pesi paesi che sono stati presi e quindi c'è stato, si è preferito vendere. E questo sui titoli, sì, devo dire vendite generalizzate ma non drammatiche, ecco, mettiamola così, non pesanti, come siamo soliti dire. Dunque, mi chiede qualcuno della Grecia, vi faremo riferimento anche dopo, ma non ho capito cosa sia cambiato rispetto al commento di questa mattina. Dicevo semplicemente che nei 100 secondi che il vincitore è sicuramente il fronte del no, cappeggiato dalla Germania ma con tutti gli altri paesi dietro, e che Tsipras si è reso conto di quanto poi sia diverso quello che annunci con quello che puoi ottenere, visto che in Europa poi ci vuoi restare. E occhio all'effetto boomerang. Mi sembra che sulla Grecia, visto che le citavi anche tu, le dichiarazioni siano in quella falsa riga, cioè attenzione, i tedeschi dicono potrebbero servire, potrebbe servire una terza tranche di aiuti da 20 miliardi e Schäuble dice attenzione, mai dire mai, ma non potrà avere questi soldi senza realizzare il programma, ed è comunque troppo presto per realizzare il programma, quindi insomma continua a essere il boccino nelle mani dell'Europa, di Bruxelles e in particolare della Germania, tant'è che Tsipras adesso dovrà andare a spiegare ai suoi che cosa è riuscito a ottenere. Sì, 4 mesi di tempo, ma rispetto a quello che aveva chiesto è un po' poco, è inutile girarci attorno. Torniamo sui titoli invece, dicevo, oltre alle banche, World Duty Free si era mossa, Exor, perché Exor ha confermato che sta valutando la possibile cessione della partecipazione in Cushman & Wakefield, che è una grande società, diciamo, di transazioni immobiliari. Prego. Sì, esattamente. Exor è stata una delle migliori della giornata, poi alla fine ha ceduto leggermente sul finale, ha guadagnato lo 0,53%, e a muovere il titolo sono state queste indiscrezioni del Wall Street Journal che parlano di una vendita, come dicevi tu, di questa controllata immobiliare e che viene valutata a 2 miliardi di dollari. Se, anche se Exor ha detto che al momento non ci sono transazioni da comunicare e non c'è comunque garanzia che l'analisi in corso per la vendita di Cushman & Wakefield possa concludersi con una reale transazione, questo prezzo viene giudicato comunque che se si dovesse veramente raggiungere una guadagnerebbe vendita, parecchio. Prezzo, esatto, guadagnerebbe molto, perché viene visto un valore implicito di 1,4 miliardi di euro, perché la valutazione per esempio degli analisti era intorno ai 710 milioni di dollari e addirittura la società a fine 2013 indicava il valore della controllata a 586 milioni di euro, quindi comunque se veramente dovesse riuscire a venderla a 2 miliardi di dollari sarebbe un guadagno veramente sostenuto. Sì, poi lì sono partite tutte le ipotesi, che se ne fa, perché vuole vendere adesso Exor per la partita sul Corriere della Sera, sulla Rizzoli, non lo sappiamo. E mi guardo bene da fare qualunque commento e analisi, anche perché per aver appena detto mica sono pazzi a Mediaset, cioè che non vanno a fare un'offerta così a chiedere JP Morgan, mi sono appena beccato del marchettaro a favore di Mediaset, va bene, andiamo avanti così, e confermo invece che mica sono pazzi a Mediaset, che se fai un'offerta del genere che confermi che il consiglio di amministrazione di Mediaset conferma che vale quasi 800 milioni di euro con il coinvolgimento di JP Morgan, non sono pazzi, e vuol dire hanno fatto i loro conti, quindi un obiettivo ci deve essere, non è che uno si mette a fare un'offerta così pur sapendo di non poter essere, che l'offerta per legge non può essere accolta. Ma di che stiamo parlando? Andiamo avanti. Unipolsai. Sì, Unipolsai oggi è stata beneficiata della giornata, diciamo, debole invece, uno dei titoli che è emersi. Diciamo, sulla società in particolare non ci sono state notizie, però oggi c'è stata l'assemblea della controllante Unipol che ha votato il via libera alla trasformazione delle azioni da quelle privilegiate in ordinarie della nuova GF. E in qualche modo, probabilmente, visto che Stefanini ha parlato di miglioramento del titolo, stabilità, aumento del flottante, probabilmente si è andato un po' a scommettere, infatti per esempio certo. Anche Unipol, che era andata male per quasi tutta la seduta, invece alla fine poi è riuscita a limitare le perdite, ha fatto più 0,09%. Migliori e peggiori in assoluto: Kinexia più 25,40, KR Energy più 13 e poi appunto Rai Way. Peggiori: Acotel Group meno 4,70. Nel ringraziare Flavia Carletti di Radio Corriere sulle 24 ore, è appena uscita la notizia che l'antitrust ha comunicato di aver ricevuto notifica formale da A-Towers, quindi dalla controllata dei Mediaset, dell'offerta su Rai Way. Sotto e 8 minuti, di nuovo in diretta con Focus Economia e con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo adesso una nota del governo sulla vicenda Rai Way, ricordando che dunque l'offerta di A-Towers, quindi di Mediaset, per Rai Way conferma l'apprezzamento da parte del mercato della scelta compiuta dal governo di valorizzare la società facendola uscire dall'immobilismo nel quale era confinata. E quindi, vabbè. Però aggiunge, la cosa più importante, che attenzione, il 51% di Rai Way deve restare pubblica come previsto dalla legge del 2014. Nel frattempo un altro giallo che cerchiamo di chiarire riguarda, come avevo detto all'inizio, Google. Ci arriveremo tra un attimo, perché prima ci ha raggiunto in collegamento il direttore del centro studi della Confcommercio, Mariano Bella. Buonasera. Buonasera. Bella, ma che fate? Terrorismo? Dite, ho visto che avete detto potremmo pagare 71 miliardi di tasse se scatteranno le clausole di salvaguardia. Questo è chiaro che... Se le clausole di salvaguardia sono quelle previste, per cui se tu non riesci a ottenere, a ridurre deficit, a ottenere i ricavi che hai stimato in finanziaria o in legge di stabilità, devi far partire maggiori tasse. Però mi interessa anche la stima che avete fatto sugli immobili, più 115% di tasse sugli immobili tra 2011 e 2014. Terrorista non me l'hanno dato nessuno, c'è la prima volta. Va bene. Allora, sulla legge di stabilità, che è zeppa di clausole di salvaguardia, noi abbiamo preso semplicemente i numeri, li abbiamo messi, credo, ordinatamente in colonna, rimettendo in righe i provvedimenti. C'è poco da fare: se non si raggiungono determinati tagli della spesa pubblica, nel 2016 partiranno 16,8 miliardi, soprattutto l'incremento dell'IVA, che poi, andando avanti nel tempo, diventano 29 miliardi nel 2018. Facendo la somma, nel triennio c'è un cumulato di 73 miliardi. Questi sono documenti sostanzialmente pubblici che abbiamo rielaborato. Per quanto riguarda le tasse sul patrimonio immobiliare, sia residenziale che produttivo, effettivamente siamo passati dal 2011 con 15 miliardi di gettito a 32 miliardi del 2014, quindi è un incremento del 115%. D'altra parte, questi numeri, che non sono affatto astratti ma che hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, e le persone lo sanno benissimo, sono quelli che determinano quella scarsa propensione al consumo che oggi è frenata proprio dalla riduzione della ricchezza immobiliare, cioè dal valore delle nostre case, anche a causa del calo del rendimento dovuto all'incremento della tassazione. Quindi non c'è niente di più pratico e di più sentito che mette in evidenza questo problema della tassazione sugli immobili, cui credo vada data una certa riorganizzazione, perché così è molto confusa e non aiuta neppure gli stessi enti locali. Sì, 115% fa in effetti impressione, perché siamo passati dall'ICI all'IMU alla TASI. È risultato, esatto. Quando noi come battuta dicemmo attenzione in Italia a eliminare una tassa, perché poi arriva quella successiva, esatto, e anche più forte, beh, insomma, esatto, ci sbagliavamo ma di poco, mettiamola così. Il suo presidente Sangalli però nota, come oggi nota e fa notare anche il Centro Studi Confindustria, su dati per quello che riguarda la produzione industriale, il fatturato, gli ordinativi migliori delle attese in questo primo mese e mezzo, quasi due, e si aspetta quindi una revisione a rialzo nella seconda metà dell'anno per quello che riguarda il PIL italiano. Dicevo che anche il suo presidente Sangalli oggi dice: beh, ci sono segnali di risveglio. Chiaro che il Centro Studi Confindustria si occupa delle industrie, delle imprese, manifatturiero di servizi, voi lavorate con il commercio. Però dice: attenzione, occorre un elemento, uno scatto in più di certo, carattere fiscale, ho capito bene? Certo, è esattamente questo, ma d'altra parte sia noi che Confindustria siamo perfettamente d'accordo sul fatto che oggi c'è una circostanza eccezionale, una convergenza di elementi, di impulsi positivi che vengono dallo scenario macroeconomico, che però vanno valorizzati all'interno. Cosa manca oggi in Italia? La domanda interna, soprattutto i consumi. Come si fanno a ripartire i consumi? Aggiustando, magari in maniera moderata ma decisa, cioè con una direzione certa, sostenibile e generalizzata, gli sprechi nella pubblica amministrazione, che vanno ridotti sia a livello centrale che a livello locale, e restituire ai produttori, famiglie e imprese le risorse che da questa revisione della spesa possono emergere. Vorrei fare una battuta su quanto le diceva Priano, quando dici attenzione che quando togliamo la tassa in Italia c'è il rischio di pagare due volte. Purtroppo è quello che ha fatto crescere la pressione fiscale negli ultimi 10 anni, cioè lo Stato centrale taglia agli enti pubblici i fondi, perché giustamente tutti devono fare la loro parte, ma si dimentica di ridurre le aliquote dei tributi propri, dei tributi erariali, dei tributi dello Stato. Dopodiché gli enti pubblici, giustamente, avendo nuove responsabilità ma meno di risorse, aumentano le imposte. Il risultato è che le mie tasche sono uniche, ma i livelli di governo a cui devo pagare le imposte sono molti e le imposte si moltiplicano, quindi bisogna aggiustare, sì, questo federalismo, sì, fiscale. Sì, siamo d'accordo, anche perché è chiaro che se tu riduci i trasferimenti dallo Stato alle regioni, agli enti locali, e poi però dai loro la possibilità di aumentare l'aliquota di competenza regionale piuttosto che comunale, e loro lo fanno in moltissimi casi, anche perché il patto di stabilità interno si è sbloccato, certo, solo parzialmente, quello che impedisce agli enti virtuosi di spendere. Certo. Questo fa il paio, quanto le dice, fa il paio con la Corte dei Conti, che ha ricordato, attenzione, l'effetto degli 80 euro in busta paga, fermo restando che riguarda solo alcuni e non tutti, ma rischia di essere annullato dall'aumento della pressione fiscale complessiva, non quella dello Stato in senso stretto, esatto, ma complessiva. Esatto. E poi non ci si dovrà sorprendere se i consumi non aumentano, esatto, perché insomma, 80 euro, ma se poi ti entrano da una parte e ti escono dall'altra, è ovvio che i consumi resteranno fermi. Questo ci porta, nel ringraziare Mariano Bella, a parlare subito anche della buona notizia di oggi, perché la notizia è più che buona, e mi riferisco al fatto che la Commissione europea abbia dato via libera alla legge di stabilità italiana, alla legge finanziaria italiana, con alcuni caveat, con alcuni distinguo e precisazioni, perché dice continueremo a monitorare però l'andamento di questa legge di stabilità nel corso dell'anno. Abbiamo fatto i compiti a casa con molta fatica, ma anche con buoni risultati. Questo significa che l'Italia, non dimentichiamoci, che è un paese che sono 3 anni che è in recessione, che ha un debito molto elevato, affronta un esame molto duro. Però nell'esame, fortunatamente, non si guarda solo al numero oggi, ma si guarda a quello che i numeri diranno sul futuro. Quindi gli sforzi sulle politiche di struttura, le politiche di bilancio, le previsioni. Tutte queste cose mi rendono moderatamente ottimista, però mi fermo qui perché... Moderatamente ottimista, non di più. Dai, su. Moderatamente ottimista. Poi facciamo il titolo domani, ottimista. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Prossima mattina. Così il ministro Padoan da Giovanni Minoli a Mix 24, ci aveva visto giusto Padoan, si diceva lo scorso 23 febbraio moderatamente ottimista, 2 giorni fa, su quello che sarebbe stato l'esito del giudizio della Commissione Europea. Così è stato, perché appunto oggi Bruxelles dice non apriremo nessuna procedura contro l'Italia dopo l'analisi della legge di stabilità, e però visto che gli squilibri sono rimasti invariati richiedono un monitoraggio specifico. Posizione diversa sulla Francia, dove Bruxelles ha detto attenzione, da questo punto di vista vi diamo altri 2 anni, ma dovete entro maggio portare delle misure di correzione sul deficit, perché il vostro deficit altrimenti così non tornerà mai sotto il 3%. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera Sebastiano. Un minuto, eccomi, di pazienza, traffico, sì, e poi la tua analisi sulla legge di stabilità, anche perché la Corte dei Conti ieri ha detto attenzione, ci sono delle coperture incerte come la lotta all'evasione e come i ricavi che dovrebbero arrivare dalla lotta all'evasione e quelli che dovrebbero arrivare dalla spending review. Dino Pesole, è più preoccupante quanto dice la Corte dei Conti o è più positivo e dobbiamo quindi rallegrarci il giudizio di Bruxelles di oggi, che ha anche un giudizio molto positivo sul Jobs Act, piaccia o non piaccia, è Bruxelles che parla, non il sottoscritto, dice ha modificato in meglio il mercato del lavoro italiano sia sul fronte dell'ingresso che sul fronte dell'uscita. Comunque, Dino. Beh, allora, diciamo subito che il giudizio di Bruxelles è molto incoraggiante, anche perché si applica per la prima volta una clausola di flessibilità che non è irrilevante, perché per la prima volta si dice e si riconosce che i paesi che sono fuori dalla procedura per deficit eccessivo, e noi lo siamo perché abbiamo il deficit al 3%, ecco, questi paesi si riconosce che in presenza di una perdurante ciclo economico negativo, Padoan lo ha detto, sono 3 anni di recessione che fortunatamente quest'anno speriamo cesseranno, ecco, e questi paesi si apre una flessibilità, sostanzialmente si dice d'accordo, noi riconosciamo che il vostro sforzo adesso, quello che avete messo in campo con le riforme, produrrà dei risultati, per quanto riguarda il passato, come dire, chiudiamo con risultati che ci sono, quindi è un via libera interessante, anche se, e poi qui apriamo la parentesi Corte dei Conti, perché sostanzialmente è quello che indirettamente dice anche Bruxelles quando dice al governo e all'Italia, attenzione però perché continuate ad avere uno squilibrio macroeconomico non indifferente. Bruxelles si riferisce al debito, la Corte dei Conti si riferisce al fatto che ci sono delle poste finanziarie nella legge di stabilità che vanno monitorate, ma è un aspetto che noi abbiamo più volte analizzato qui a Focus Economia, ad esempio i tagli alla spesa, la cosiddetta spending review, quest'anno, quest'anno sono previsti 7,5 miliardi. Da dove arriveranno? È un po' complicato perché tra l'altro ci sono quasi 4 miliardi a carico delle regioni e se non ricordo male le regioni già entro metà febbraio dovevano far sapere al governo dove avrebbero trovato questi risparmi, perché la clausola della legge di stabilità non è un taglio lineare vero e proprio, si dice alle regioni, care regioni, voi dovete portare a casa quest'anno 3,8 miliardi di risparmi, come lo vedete voi? Però questo ancora non è stato fatto. E poi ci sono gli introiti della lotta all'evasione, 3,3 miliardi, e chi lo sa se si riuscirà a realizzarli. Dunque ci sono dei punti potenzialmente critici, poi magari tutti speriamo che invece si realizzino, però giustamente la Corte dei Conti, che di mestiere fa proprio questo, cioè la magistratura contabile dice attenzione governo, monitorate, perché sennò poi questi benefici che ci sta dando Bruxelles ce li perdiamo, questo è un po' il senso. Ecco, che beneficio, il governo ha già incamerato tra i benefici i risparmi che ha lo Stato italiano da, anche oggi commentavamo botte, minimi storici, BTP, spread, rendimenti bassissimi, a noi risulta che più o meno in questo modo si risparmiano tra i 6 e i 7 miliardi, esatto. Più ci dovrebbero essere i 4,5 miliardi di entrate attese dalla tassazione dei capitali in rientro dalla Svizzera, il famoso voluntary disclosure di cui abbiamo parlato per intere puntate. E forse è grazie a queste due operazioni che il governo dice, vabbè, ma anche se non c'entreranno tutti i soldi che immaginiamo dalla spending review e dalla lotta all'evasione, ci stiamo dentro comunque? Sì, è sostanzialmente così, perché è molto probabile che i tagli non si realizzino per intero. 7,5 miliardi, non ci credo neanche se li vedo, in un anno probabile. Poi. Però il fatto che quest'anno noi, anche per effetto del quantitative easing, non dimentichiamo che a marzo arrivano i soldini della BCE e dunque anche questo avrà un effetto positivo sui tassi e sulla curva dei rendimenti. E 6-7 miliardi di risparmi sul fronte degli interessi non sono una cosa da poco. E quindi questo ci garantisce per una volta, possiamo vedere quest'anno 2015 che si apre finalmente sotto una luce migliore per i conti pubblici. Sì, devo dire che un altro aiuto al governo, siccome poi il deficit, come abbiamo spiegato decine di volte, è un rapporto, non è un valore assoluto, e quindi è il deficit fratto, come si diceva a scuola, barra, diciamo, il PIL. Se il denominatore aumenta, cioè se il PIL cresce invece che dello 0,5 cresce un po' di più, 0,8, vedremo, il Centro Studi Confindustria oggi era abbastanza ottimista su questo, è chiaro che ne è un beneficio, perché a parità di deficit il rapporto tra deficit e PIL diminuisce, quindi hai la possibilità di stare sotto il 3% anche se il tuo deficit è leggermente più alto del previsto, perché aumenta il PIL. Certo. E poi tu confermavi che i 6-7 miliardi di minori spese per gli interessi sul debito uniti ai miliardi che dovrebbero arrivare dalla tassazione del rientro del capitale con la Svizzera, di fatto potrebbe andare a colmare quello che sarà con ogni probabilità un minore gettito dovuto a una spending review che secondo me non li farà neanche col binocolo, 7,5 miliardi, e la lotta all'evasione che è un'araba fenice, lì vedremo se arriveranno i soldi che il governo ha stimato, molti dubbi da parte della Corte dei Conti. Nel ringraziare Dino Pesole del Sole 24 Ore, chiudiamo da dove siamo partiti, ossia il giallo Google, come l'abbiamo chiamato. C'è sto accordo o no, visto che parliamo di soldi? Qui non sono tantissimi, ma sono comunque 300 milioni di euro secondo le stime. C'è l'accordo, no, con le autorità italiane per pagare le tasse su il fatturato realizzato in Italia attraverso la raccolta pubblicitaria? Double Irish non è un drink, un tipo di whisky, ma è il tipo di tassazione che c'è in Irlanda e che Google avrebbe utilizzata per non pagare tra l'altro le tasse sugli utili nemmeno in Irlanda e andare a quel punto nelle isole paradisi, scusatemi, fiscali Bermuda. Ma io voglio sapere, c'è o non c'è sto accordo? Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, buonasera. L'accordo, Sebastiano, non c'è, oh. Come hanno tenuto a precisare tutti gli attori in causa, cioè la Procura, la Guardia di Finanza e la stessa Google. Si sta in realtà cercando di arrivare a un accordo. Oggi, facendo delle ricerche, ho appurato che già dal 2002 Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate tentano di recuperare dei soldi da Google. Non ci sono riusciti finora per delle complicatissime operazioni, diciamo, di pianificazione fiscale aggressiva che portano a quella double Irish a cui facevi riferimento. Qualcosa però sta cambiando, perché a fronte del double Irish c'è il BEPS. Il BEPS è questo piano concordato a livello OCSE, UE, e voluto fortemente dagli Stati Uniti contro l'erosione di base imponibile e di profit shifting, cioè quelle pratiche per cui le multinazionali fanno affari in un paese e fingono di andare a pagare spesso le tasse in un altro. Siccome si stanno mettendo a segno tutta una serie di piani normativi che dovrebbero bloccare queste pratiche, alle multinazionali in realtà conviene fare la faccia buona, patteggiare prima, dici. Pagare, iniziare a pagare qualcosa in più, ma ottenere dagli stati delle normative un po' meno pesanti. Quindi quello che sta accadendo in questo momento con Google, ma anche con altre azioni relative alle altre web company che sono sotto inchiesta, è quello di trovare, diciamo, degli accordi che permettano di incassare qualcosa subito, magari qualcosa in meno in futuro, ma di non incassare, per esempio, appena 1 milione da Google, che fa un fatturato, diciamo, multimiliardario, ed è assolutamente uno scandalo questo. Sì, adesso uno lo può pensare come vuole, ma insomma Google in Italia raccoglie tra 1 miliardo e 1 miliardo e 200 milioni di pubblicità online, paga 1 milione di tasse. Adesso possiamo girarla come volete. I Double Irish ve lo potrei spiegare: praticamente c'è una società che risiede in Irlanda e fattura gli acquisti conclusi in diversi paesi dell'Unione Europea per sottrarli alla tassazione in quei paesi. E poi cosa succede? Che c'è una seconda società, ecco perché si chiama Double Irish, che è irlandese, che risiede in un paradiso fiscale e detiene i diritti intellettuali della società 1, e a quel punto la società 1 paga la 2 e neanche li paga in Irlanda, a questo punto li paga alle Bermuda, dove non, alle si, Bermuda, paga. Dove non si paga. E dai, per favore, su, va bene la new economy, ma non la old elusione. Grazie a te, Marco Bellinazzo. Da Sebastiano Berisoni veramente tutto, vi lascio al resto della nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.